sono le 13. GR24, Il Sole 24 Ore, edizione extra large. Dall'America primo sì al piano Bush contro la crisi, ora si lavora al piano europeo, Tremonti ottimista e in Italia pochi rischi. Ryanair contro Alitalia, ricorso a Bruxelles contro il piano di salvataggio, proprio mentre a Milano si riunisce la CAI del dopo accordo. La risposta dei casalesi, agguato nel napoletano omicidio nell'azienda di un testimone di giustizia. Fini chiama Berlusconi, non si abusi dei decreti, Schifani con il premier, c'è Napolitano a vigilare. 10 giorni nel deserto, a extra large tra poco il racconto, la testimonianza di una delle donne sequestrate in Egitto. Il bel paese delle eccellenze nel rapporto Eurispes, dalla neurochirurgia al vetro soffiato, l'Italia che funziona e tra ciò che il mondo ci invidia, anche Umbria Jazz e l'Acquario di Genova. Tante imprese, ma non solo. Passa per i NAS, il nucleo antisofisticazione dei carabinieri, le ACLI e anche per il Festival Umbria Jazz, il viaggio dell'Eurispes attraverso 100 casi di efficienza italiana, contenuto in un rapporto giunto alla sua terza edizione. I casi scovati dai ricercatori restituiscono l'immagine di un'Italia in cui l'impresa privata eccelle soprattutto nel manifatturiero, che copre 20 casi sui 56 segnalati, ma si piazzano bene anche il settore alimentare e quello tessile. La regione più rappresentata, il Lazio, con 12 imprese private e addirittura 23 istituzioni sulle 44 segnalate, complice anche l'alta densità di enti nella capitale. In questi casi di successo, il presidente di Eurispes, Gianmaria Fara, vede il desiderio sempre più diffuso di reagire all'afflizione dovuta al nostro sistema. L'Italia è un paese complesso e complicato. Occorre qualcuno che metta i diversi pezzi a sistema. Il presidente ci tiene a sfatare il luogo comune per cui l'efficienza italiana è frutto solo della proverbiale genialità. Non è solo genio, insomma, come si dice, genio e sregolatezza, no. Il vero problema è che spesso queste aziende sono lasciate sole, sono abbandonate a se stesso perché non c'è un sistema paese che le sostiene, le proietta in avanti. Francesca Malaguti, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. GR Extra Large, buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno da Anna Migliorati. E abbiamo voluto aprire così con questo servizio sul rapporto dell'Eurispes che parla delle nostre eccellenze, le eccellenze italiane. Un'altra buona notizia in qualche modo di giornata, perché davvero dopo i giorni neri arriva oggi dalle borse, l'avete sentito a lungo anche dalla nostra Deborah Rosciani, i mercati europei vanno bene oggi, la migliore piazza affari tra l'altro trascinata dai titoli bancari, e a trascinare sono le notizie arrivate dagli Stati Uniti, dove nella notte è stato approvato dal Senato americano il piano di salvataggio del sistema finanziario. Il pacchetto da 700 miliardi di dollari passa ora all'esame della Camera, che tornerà questa sera a votare. LK sulla Repubblica, la satira quindi su questo argomento. Liquidazioni d'oro per i top manager che hanno provocato la catastrofe finanziaria. E la risposta: anche Bush per andarsene vuole 700 miliardi di dollari. Tira un sospiro di sollievo comunque l'Europa, che aveva sollecitato il sì al piano, e tira un sospiro di sollievo l'Italia. Cominciamo oggi da noi, perché ha parlato questa mattina alla Camera il ministro dell'Economia Giulio Tremonti. Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, è la seconda volta in meno di una settimana che dal Ministero dell'Economia arriva un messaggio rassicurante circa la posizione delle banche italiane rispetto alla crisi finanziaria internazionale. Lunedì è stata la volta di un comunicato del Tesoro al termine del Comitato per la salvaguardia della stabilità finanziaria. Oggi è stato lo stesso ministro Tremonti, in un intervento in aula alla Camera, a garantire sulla tenuta della liquidità delle nostre banche, ma allora ascoltiamo il ministro. Le conseguenze della crisi sul sistema bancario e assicurativo italiano rimangono contenute. La situazione di liquidità della banca italiana è adeguata. L'attenzione resta comunque alta e la situazione, ha ricordato Tremonti, sarà affrontata sia a livello europeo che nel G8. Sentiamo ancora il ministro. Sabato pomeriggio a Parigi è stata convocata dalla presidenza europea la riunione dei 4 capi di Stato e di governo dei paesi membri del G7, con Francia, Italia, Germania e Regno Unito. Subito dopo, tra lunedì e martedì in Lussemburgo, prima nella forma delle riunioni dell'Eurogruppo e poi nella forma a 27, saranno i ministri dell'economia e delle finanze europei ad approfondire la situazione e a coordinare la loro azione. Si sta lavorando, ha detto ancora Tremonti, per avere regole più ferree sui requisiti delle società finanziarie e di rating. Il capitolo conti italiani, nonostante l'incertezza della congiuntura internazionale, ha fatto capire il ministro l'Italia rispetterà gli obiettivi prefissati e la riduzione delle tasse resta un obiettivo del governo. L'Istat però dal canto suo segnala oggi un deficit in aumento, 2,6% nei primi 6 mesi di quest'anno contro l'1,5% del 2007. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo, e come avete sentito anche dalle parole del ministro dell'economia Tremonti, la palla ora passa all'Europa. Sabato è stato convocato un incontro tra i paesi europei proprio per affrontare questa crisi. Attilio Geroni da Parigi, buongiorno. Buongiorno a voi. A cosa sta lavorando dunque il presidente francese Sarkozy, Attilio? Beh, bella domanda, perché fino a ieri si pensava che stessero lavorando a un fondo di salvataggio per le banche europee, il cui ammontare è intorno ai 300 miliardi di euro. Oggi, tra ieri e oggi, sono arrivate una serie di strane smentite. La Francia dice che non sta lavorando a questo piano, né nell'ammontare né nel suo concetto. Secondo me queste smentite sono il frutto della reazione negativa della Germania, che la Germania ha avuto ieri bocciando l'idea di questo fondo di salvaguardia ed essendo più favorevole a un approccio caso per caso. Sicuramente questo piano è nella mente dei francesi, che dall'inizio della crisi vogliono prendere un ruolo di leadership nella soluzione, ed è anche chiaro che sabato a Parigi i quattro paesi europei dovranno dire qualcosa in più di quello che hanno detto finora, e soprattutto dovranno fare qualcosa, dare un segno concreto dell'impegno europeo per salvaguardare i risparmiatori e soprattutto per contenere gli effetti di questa crisi finanziaria sull'economia reale. Quindi dovranno dire qualcosa e fare qualcosa di concreto. Attilio, 10 economisti europei hanno pubblicato oggi anche una lettera aperta ai leader europei per chiedere un immediato intervento per ricapitalizzare il settore bancario. Tra gli altri ci sono Tito Boeri, Francesco Giavazzi, Stefano Micossi, Guido Tabellini. Secondo gli economisti europei, l'azione decisa dagli Stati Uniti è benvenuta, ma non è sufficiente. Una decisa azione politica, scrivono, è necessaria in Europa. D'altra parte, Attilio, per l'Europa della moneta unica è forse la prima vera crisi, quindi un banco di prova importante. Ci riusciremo? Ma sì, è la vera prima crisi dell'Unione Monetaria Europea. Il problema è che l'Unione Monetaria Europea si è date delle regole precise per esistere. Credo che alcune di queste regole, a cominciare dal patto di stabilità, debbano essere, come dire, in un certo senso per un momento abbandonato, comunque riscritte. Quindi è inutile che l'Europa affronti questa crisi con l'ortodossia comunitaria o l'ortodossia monetaria della BCE. Bisogna essere creativi e usare qualcosa in più di quanto non è stato fatto finora. È un mondo nuovo. Grazie a Tito Geroni. Adesso torniamo in Italia, perché il Senato ha approvato questa mattina con 149 voti favorevoli e un solo contrario il decreto legge che riguarda l'Alitalia, il decreto che modifica la legge Marzano sulle grandi aziende in crisi. Hanno votato a favore il Popolo della Libertà, la Lega Nord, naturalmente invece non hanno partecipato al voto il Partito Democratico, l'Italia dei Valori e l'UDC. E oggi prima riunione a Milano per la nuova Alitalia, ha riunito il CDA della CAI, ma anche qui a pendere sulla nuova Alitalia c'è un ricorso in Europa. Paola Nania. Sì, buongiorno. È durata meno di un'ora e mezzo l'assemblea di CAI Compagnia Aerea Italiana, assemblea che ha deliberato all'unanimità il ripristino dell'offerta per l'acquisto della parte buona di Alitalia, ripristino già comunicato al commissario straordinario Fantozzi. L'assemblea ha deliberato inoltre di ratificare gli accordi sottoscritti con le 9 organizzazioni sindacali di Alitalia. Nessuna novità invece sul fronte del partner internazionale, decideremo nelle prossime settimane, ha detto Corrado Passera di Intesa San Paolo. In Lizza, lo ricordiamo, sono Lufthansa e Air France. Proprio ieri il numero uno dei francesi Spinettai è arrivato a Roma per parlare con il presidente Colaninno. Come ricordavate da studio, c'è intanto il ricorso di Ryanair, il ricorso presentato alla Commissione europea contro il piano di salvataggio di Alitalia, giudicato un aiuto di Stato non consentito. Il commento del presidente di CAI, Roberto Colaninno, alla fine dell'assemblea, quindi, a Clerici è stato: Ryanair ne ha tutto il diritto. E per ora è tutto. Grazie naturalmente a Paola Nania. Cambiamo ancora argomento. 130 arresti, come sapete, solo 2 giorni fa tra gli affiliati al clan dei Casalesi, e oggi è arrivata una risposta. Un omicidio di camorra con ogni probabilità riconducibile alla guerra dei casalesi. Lorenzo Riccio, 37 anni, è stato assassinato a colpi di Kalashnikov e pistola da due uomini che sono entrati a volto scoperto in una ditta di pompe funebri a Giugliano. Riccio, incensurato, lavorava come ragioniere nell'azienda. Il titolare dell'impresa, vittima del racket negli anni 90, aveva testimoniato ad un processo contro il potente clan dei casalesi, allora sotto il completo controllo del super boss Francesco Schiavone. Gli inquirenti non escludono che questa mattina i sicari abbiano fatto fuoco contro la persona sbagliata, ma la camorra è entrata in azione nelle ultime ore anche nel Vesuviano. Ieri sera ad Ercolano è stato ucciso Salvatore Scognamiglio, 53 anni, ritenuto legato al clan Birra. Enzo Danna, GR24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Intanto ancora riunito al Quirinale, presieduto dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, il Consiglio Supremo di Difesa, che deve pronunciarsi tra l'altro sull'impiego dei militari in Campania nella lotta alla camorra. Ieri il ministro dell'Interno Maroni aveva detto che l'invio dei militari sarà coordinato dal Viminale. La replica del ministro della Difesa Ignazio La Russa: nessuna competizione con Maroni, ma la legge, ha detto, prevede una concertazione. E c'è un altro conflitto all'orizzonte e riguarda il presidente della Camera Gianfranco Fini, quello del Senato Renato Schifani e anche il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, che è all'origine della questione. Come sapete, Berlusconi aveva detto che il governo avrebbe fatto ricorso a maggiore decretazione d'urgenza nei prossimi mesi. Gianfranco Fini, presidente della Camera, quest'oggi rispondendo a una domanda dell'opposizione su questo eccesso di decretazione d'urgenza. Sentiamo Fini. È di tutta evidenza che il ricorso alla decretazione d'urgenza è, articolo 77 della Costituzione, prerogativa concessa al governo. È altrettanto evidente che un eventuale abuso della decretazione d'urgenza comporterebbe non soltanto valutazioni di tipo politico, ma certamente comporterebbe anche da parte della Camera dei Deputati il diritto dovere di far sentire la propria voce. Queste invece le parole del presidente del Senato, Renato Schifani, che ha tentato in qualche modo di smorzare la polemica. E lo stesso Presidente del Consiglio ha comunque ribadito un concetto essenziale, che la decretazione d'urgenza in ogni caso era devoluta nella effettività o meno della fondatezza alla valutazione finale del Capo dello Stato. Dunque, che succede? La domanda la giriamo a Stefano Folli, editorialista del Sole 24 Ore. Buongiorno. Buongiorno. Questo scambio di battute, dietro cosa c'è? Si profila un conflitto istituzionale in qualche modo? Ma secondo me c'è una sorta di conflitto, forse la parola è grossa, però certamente una profonda divergenza su un punto cruciale. Cioè, da un lato Berlusconi insiste su un meccanismo che accentui, diciamo, il potere dell'esecutivo e che quindi vada incontro a una sorta di decisionismo permanente, e dall'altra parte invece c'è la tesi della centralità del Parlamento che il Presidente della Camera ha in qualche modo sottolineato. Non è strano che ci sia una differenza tra Fini e Schifani, è che entrambi sono stati eletti dalla maggioranza e quindi interpretano all'interno della stessa maggioranza due punti di vista un po' diversi. Schifani tende, diciamo, a essere più in sintonia con il Presidente del Consiglio. Fini vuole invece rappresentare questa esigenza che rimane di garantire al Parlamento la sua centralità e il suo ruolo nel nostro sistema costituzionale. D'altra parte io ritengo che Fini in questo rifletta anche un minimo di disagio che queste parole di Berlusconi possono aver suscitato, ne deduco io, insomma, anche al Quirinale. Da questo punto di vista credo che Fini rappresenti un pochino anche gli interrogativi che possono venire dal Presidente della Repubblica, il quale, come si sa, deve controfirmare i decreti del governo. Grazie a Stefano Folli per questa analisi. E invece la prossima battaglia, ma stiamo parlando naturalmente di tutt'altro, è quella contro i graffitari. C'è un'altra cosa che stiamo studiando, c'è un imperversare di graffiti, chiamiamoli col termine nobile, sulle case italiane, che rende molte città più vicine alle città africane che alle città del centro Europa. Ci siamo. Dopo la cacciata delle lucciole, ecco una nuova polemica con conseguente dibattito su usi, costumi e degenerazioni della nostra epoca che sta arrivando sui nostri schermi. Per i graffitai del bel paese, quelli che per dirla volgarmente imbrattano i muri con disegni spesso incomprensibili, la pacchia sarebbe finita. A giorni infatti sarà pronto il disegno di legge confezionato dal ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo che fisserà sanzioni e provvedimenti per arginare il fenomeno. Si parla anche di 3 mesi di carcere e multe fino a 2.000 euro. Però le opinioni sono divergenti. Per il critico d'arte Filippo Daverio, pollice giù. Ma non è arte, è un modo espressivo di espressione come tale interessa l'antropologo, no? Perché ogni segno ha un suo interesse. E pensare che sia arte è assolutamente sbagliato, lo era 30 anni fa sui vagoni di New York quando serviva alla liberazione e alla riappropriazione dei giovani portoricani, di alcuni afroamericani, giovani alternativi. A Milano, Firenze o a Roma non è nulla, cioè è semplicemente però, è, a mio parere, il segnale della sensazione di non appartenenza della città. Di tutt'altro parere Dario Fo. È inutile nascondersi veramente dietro l'angolo dell'ignoranza e dell'ottusità. Fa parte dell'arte e dello spazio straordinario creativo che i giovani si sono trovati da sé. Come hanno fatto per esempio in Svezia, in Danimarca, in Olanda, dove sono stato parecchie volte, il comune ha messo a disposizione degli spazi, ma numerosi, non uno o due piccoli muri che sono arrivati per caso ad essere liberi. Dario Ceccarelli, GR24, Il Sole 24 Ore. 13:20, le notizie di oggi extra large. Tremonti rassicura, i rischi per la crisi in Italia rimangono contenuti. Intanto il Senato americano ha approvato il piano di salvataggio di Wall Street, hanno votato a favore anche i due candidati alla Casa Bianca, Barack Obama e John McCain. Ryanair contro l'Italia, ricorso a Bruxelles contro il piano di salvataggio. Secondo la compagnia irlandese l'Italia è ricorsa ad aiuti di Stato. Intanto a Milano il CDHI si è riunito dopo l'accordo con i sindacati. La risposta dei casalesi: agguato nel napoletano, ucciso un uomo che lavorava nell'azienda di un testimone di giustizia. Gli inquirenti non escludono lo scambio di persona. 10 giorni nel deserto, a XL il racconto di una delle donne sequestrate in Egitto. Venerdì 19 settembre, ora 17. La camionetta appare all'improvviso da dietro la duna, mentre noi siamo insabbiati. Ci sono 6 uomini a bordo e ci guardano fissi. Sono quasi ragazzi, ma sono tutti armati. Uno è appoggiato alla vecchia mitragliera, la cui canna si allunga fino al cofano. Hanno volti bellissimi sotto i turbanti scuri. Un altro scende e cammina verso di me. Indica le macchine fotografiche che ho al collo e mi fa segno di dargliele con una mano. È scalzo. Capisco che abbiamo incontrato i predoni. Inizia così il diario di Mirella De Giuli, 70 anni, una dei 5 ostaggi italiani rimasti, come ricorderete, per 10 giorni prigionieri nel deserto egiziano. Sul suo diario la signora torinese appunta spostamenti, impressioni, le sue paure e le sue speranze. Speranze che si sono concretizzate la domenica del 28 settembre, quando nel suo diario può finalmente scrivere così. È da venerdì che non abbiamo più contatti e abbiamo paura. Alle 20:30 siamo stati tutti coricati, quando arriva l'ordine di andarcene. Ci lasciano un vecchio GPS e un'auto sola, e siamo in 19. Spariscono nel deserto. Elda Tour ci ha salutati dicendoci: provateci. Dobbiamo scegliere se dirigerci verso l'oasi di Dakhla a 350 km o verso una pista di 250 km. Scegliamo la seconda ipotesi. La pista è sabbiosa e il GPS non funziona. Facciamo una curva e ci appaiono 6 tende bianche. Panico, ma sono soldati egiziani. Capisco che siamo liberi. Questo dunque il diario. Oggi Mirella De Giuli è naturalmente ancora scossa. Questo il suo racconto a Raffaella Calandra. Sono immensamente stanca. Immagino, sì. Perché comunque... Quando crolla la tensione... Ci è sembrato un diario particolarmente, come dire, unico nel suo genere, questo che abbiamo letto. È stato per lei un bisogno anche di scaricare la tensione, ecco. Ma guardi, no, io tengo sempre un diario di viaggio, così, perché poi mi serve a ricordare. Semplicemente pensavo non si potesse scrivere, poi ho visto altri compagni di prigionia che scrivevano e quindi anch'io, ma non avevo molta voglia di scrivere, quindi sono pochissime notizie mie. che così quando avrò voglia ritornerò a vedere. Però in quei momenti di grande tensione lei quando riusciva a scrivere, voglio dire? Cioè... Al tempo c'era tutto, quando c'era luce. Non vi creavano problemi le persone con cui eravate? Cioè vi permettevano, no. Vi permettevano di scrivere tranquillamente? Infatti, io pensavo non fosse possibile, invece lo è stato. Però sono proprio quattro appunti così, che non hanno nessun significato. Beh, però sono una breve, insomma, neanche tanto breve, cronistoria di quanto vi è capitato. Lei ha avuto anche il coraggio, diciamo, di scrivere anche il momento del suo rapimento con grande... così, serenità sembra dalle parole. Mi è venuto così. Non... Mi ha colpito il fatto che lei in queste parole scrive anche dei volti bellissimi di queste persone sotto al turbante. Se lei avesse voglia soltanto di così di raccontarci questa immagine del momento in cui siete stati rapiti. Ma erano giovani e i momenti di paura sono stati enormi. E poi in altri momenti in cui così c'era un minimo di stasi pensavo che potevano anche essere i miei figli e i miei nipoti, tutto qua, in una vissuti in una situazione terribile anche da parte loro. Terribile da parte loro? In che senso? Ma probabilmente uno che nasce in quel contesto non ha tutte le possibilità che possono avere i nostri figli e i nostri nipoti, così un risvolto... una considerazione. Quindi lei ha pensato che se sono costretti a... Io non dico che siano costretti, io sono una mamma e quindi li ho visti e ho detto forse dei miei figli, dei miei nipoti, sarei veramente angosciata. Ecco, ma voi vi eravate resi conto di quanto stesse capitando, anche dei rischi che potevate correre? Certo, io ho avuto una paura folle un sacco di volte, certo. Vi minacciavano, c'erano armi? No, assolutamente. Non, nulla di fisico. Però comunque, voglio dire, trovarsi... Tanta paura, signora, tanta paura. Sono cose che credo che chi non ha vissuto non riesce a... Penso di sì. Ad immaginare. Sì. Comunque finita, sono qui, mi considero tanto fortunata, ringrazio tutte le persone che ci hanno aiutati in tutti i modi e adesso ho tanta voglia di normalità e dei miei affetti. Lo credo bene, rientrare a casa dopo un'esperienza così non è una cosa così semplice. Ecco, ho visto che vi hanno spostato più volte, avevate immagino ancora più paura quando questo succedeva o vi spiegavano che cosa stava succedendo? No, assolutamente, niente, venivamo spostati e basta. Quindi caricati su dei camion, come avveniva? No, sui nostri mezzi. Mi fa male ricordare queste cose. Del momento della liberazione, invece? Non ho nemmeno i ricordi lucidi in questo momento. Vi hanno detto, tornate a casa? No, in questo momento, guardi, non riesco nemmeno a mettere a fuoco. Ho bisogno di sedimentare. Questa dunque è l'intervista a Mirella De Giuli, rimasta per 10 giorni nelle mani dei rapitori egiziani. C'è una questione che sta davvero modificandosi, diciamo così, negli ultimi minuti. Una notizia dell'ultima ora. Domani all'esame del Consiglio dei Ministri dovrebbe esserci la bozza sul federalismo fiscale preparata dal ministro Calderoli. Oggi in programma la riunione tra governo e regioni per discuterne, ma le tensioni tra governo e comuni potrebbero far slittare tutto. Chiara Di Michele. Sì, buongiorno. Si è appena conclusa la conferenza stampa dell'ANCI per chiarire le posizioni dei comuni sul federalismo fiscale. Il presidente dell'associazione Domenici ha chiesto al governo delle garanzie, dopodiché solo in quel momento dirà sì al disegno di legge sul federalismo. In particolare Domenici chiede l'approvazione di un decreto che contenga misure adeguate per i comuni, visto la situazione grave in cui si trovano, ha detto. Domenici ha anche riferito che durante la riunione del direttivo dell'ANCI ha avuto un contatto telefonico con il ministro Calderoli, dicendo che in questo momento si sta adoperando per organizzare un incontro con il presidente del Consiglio Berlusconi domani mattina prima del Consiglio dei Ministri in modo che vengano assicurate delle garanzie ai comuni e dopodiché si potrà svolgere la conferenza unificata. La posizione dell'ANCI è giudicata giusta anche dalla conferenza delle regioni che sono d'accordo sullo slittamento della conferenza unificata. E per il momento da Roma è tutto, a voi la linea. Grazie Chiara Di Michele. Cambiamo argomento, siamo in chiusura di questo blocco, parliamo di moda. Settimana intensa, Milano, ora Parigi. Al mondo della moda è dedicato il libro Guida turistica per Fashion Victim, la moda a Milano, Firenze e Roma. I segreti delle sfilate, ma anche le dritte su dove trovare atelier e locali, per chi fosse interessato, atelier e locali delle grandi firme nelle tre città. L'ha scritto Michela Belisario, sentiamola al microfono di Alessandra Tedesco. L'idea è nata frequentando proprio le sfilate. Ogni volta che uscivo da un défilé sentivo le persone che si guardavano intorno, volevano sapere dove erano le location, come si poteva entrare eventualmente alla sfilata successiva, dove andarsi a divertire, dove fosse, non so, il bar di Dolce & Gabbana. E così ho pensato di riunire insieme tutte queste informazioni che non esistono in un'unica guida, e le ho messe insieme a uso e consumo dei fashion victim. Un libro che non riguarda però solo Milano, ma anche altre città. Sì, esatto, riguarda Roma e Firenze, perché a Roma è praticamente nata la moda, l'alta moda negli anni 50, quando Roma era un po' la Hollywood sul Tevere, quindi sono nate le grandi sartorie d'alta moda che confezionavano i vestiti per attrici famose come Ava Gardner, che è stata una delle prime a vestire ad esempio sorelle Fontana. E poi Firenze, perché a Firenze è nato proprio il sistema delle sfilate nella mitica Sala Bianca, che tra l'altro si può visitare all'interno della galleria di Palazzo Pitti. C'è questa sala bianca piena di specchi, bellissima, dove è proprio si è inaugurata ufficialmente la prima sfilata di moda negli anni 60, nel 62 per la precisione. 13:36 minuti, GR24 Extra Large. Tremonti rassicura, i rischi per la crisi in Italia rimangono contenuti. Intanto il Senato americano ha approvato il piano di salvataggio di Wall Street. Hanno votato a favore anche i due candidati alla Casa Bianca, Barack Obama e John McCain. Ryanair contro l'Italia, ricorso a Bruxelles contro il piano di salvataggio. Secondo la compagnia irlandese, l'Italia è ricorsa ad aiuti di Stato, cancellando fino a 2 miliardi di euro di debiti. Sollecitato dall'opposizione, il presidente della Camera Fini interviene sui rapporti tra governo e Parlamento dopo l'annuncio di Berlusconi di voler incrementare i decreti d'urgenza. Troppi decreti? La Camera si farà sentire, ha detto Fini. Con il Premier, il presidente del Senato Schifani, c'è il Quirinale a vigilare. La risposta dei casalesi: agguato nel napoletano, ucciso un uomo che lavorava nell'azienda di un testimone di giustizia. Gli inquirenti non escludono lo scambio di persona. 10 giorni nel deserto, a Extra Large abbiamo sentito il racconto di una delle donne sequestrate in Egitto. Abbiamo avuto paura. 100 eccellenze d'Italia nel rapporto Eurispes, dalla neurochirurgia al vetro soffiato, l'Italia che funziona. E tra ciò che il mondo ci invidia, anche Umbria Jazz e l'Acquario di Genova. Abbiamo già parlato della crisi dei mutui e del piano di salvataggio americano votato stanotte negli Stati Uniti al Senato. Così come nella prima parte di Extra Large abbiamo parlato anche delle parole del ministro dell'economia Tremonti, che ha rassicurato. Ha detto Tremonti: le banche italiane hanno liquidità sufficiente in questa fase. Questi temi sono stati al centro del forum organizzato dal Sole 24 Ore sul 13° rapporto della Fondazione Rosselli dedicato a banche italiane e governo dei rischi. Sentiamo. Il sistema italiano del credito basato su regole e banca del territorio mette l'Italia al riparo dal disastro americano. Ma ora serve imparare da quella vicenda e occorre farlo senza ricorrere a scorciatoie ideologiche. La crisi finanziaria mondiale è stata al centro del forum che il Sole 24 Ore ha dedicato al 13° rapporto della Fondazione Rosselli su banche italiane e governo dei rischi. Donato Masciandaro, docente di economia presso l'Università Bocconi e curatore del rapporto, insieme a Giampio Bracchi, ha riconosciuto i pregi del sistema italiano, pur ricco di ombre. Quest'idea della banca territoriale, cioè del soggetto che cerca di intrecciare la parte moderna con la soft information, credo che la validità di questo modello sia stata confermata. Ma per il futuro, ha aggiunto, bisogna evitare riflessi proibizionisti o eccessi di regole. Meglio evitare regole troppo pesanti che potrebbero, tra virgolette, uccidere un mercato che in Italia è ancora giovane, e invece provare a disegnare delle regole in cui ex ante c'è molta trasparenza e nel caso poi ci sia un problema di sovraindebitamento intervenire. Dall'altra parte dell'oceano, negli Stati Uniti, sono emersi tutti i limiti del modello Merchant Bank. E poi, ha aggiunto Stefano Micossi, economista e direttore generale di Assonime, c'è stato un grave errore di valutazione imputabile soprattutto alla Fed. Non si può dire, in senso proprio, che in particolare la Banca Centrale Americana abbia perso il controllo. Mi sembra più esatto dire che la Banca Centrale Americana ha fatto delle scelte di policy che hanno avuto conseguenze sottovalutate. Ecco allora la lezione americana, che però può essere messa a frutto in molti modi. Perdonato Masciandaro, in Europa non serve dare più poteri alla Banca Centrale Europea e Mario Sarcinelli lancia l'idea di un'autorità indipendente continentale collegata alle banche centrali nazionali. Noi a livello europeo dovremmo avere una istituzione che faccia la panda alla Banca Centrale Europea per una vigilanza integrata. Quindi chi ce l'ha nella Banca Centrale è bene che continui a mantenerlo e chi non ce l'ha forse farebbe bene a ripensarci. Paolo Piacenza, GR24, Il Sole 24 Ore. L'America, che ora ha gli occhi puntati sul congresso per il voto del piano Bush, si avvicina intanto all'appuntamento elettorale. I sondaggi sembrano sostenere Obama. Oggi, nella notte italiana, si terrà l'unico dibattito tra i candidati alla vicepresidenza. In piena tempesta finanziaria, con i sondaggi che dicono sempre più Barack Obama e l'Ohio che ha già cominciato a votare, la campagna elettorale statunitense vive oggi una delle sue giornate più interessanti, con l'unico dibattito tra i due candidati vicepresidente. Ma cominciamo dall'inizio. La crisi economica ha spinto, come previsto, la stella di Barack Obama. L'ultima rilevazione Gallup lo dà 4 punti in vantaggio su McCain su scala nazionale, ma a far tremare il veterano di guerra repubblicano sono i sondaggi stato per stato. In Florida, Ohio e Pennsylvania, tre territori clou per la presa della Casa Bianca, McCain è dietro da 8 a 15 punti. Margini recuperabili, ma al voto manca poco più di un mese. Proprio in Ohio qualcuno si sta già recando alle urne grazie a una nuova legge che permette ai non iscritti di registrarsi e votare lo stesso giorno. Per dirla in termini calcistici, al ticket Obama-Biden basterà un pareggio nella notte italiana contro Sarah Palin, la vice repubblicana, vero oggetto misterioso della campagna. In teoria Joe Biden può annichilirla, soprattutto in politica estera, ma la Palin potrebbe giocare due carte a suo vantaggio. La simpatia della gente per i perdenti designati e soprattutto la sua incredibile abilità nel parlare alla pancia dell'uomo della strada. Sergio Nava, GR24, Il Sole 24 Ore. La riforma dei contratti di lavoro. Dopo la decisione della CGIL di concludere la trattativa con Confindustria, ma di restare comunque al tavolo negoziale, si va probabilmente verso un accordo separato con CISL e UIL. Oggi le parti sono tornate a ribadire i propri punti di vista. Elisabetta Fiorito. La CGIL Guglielmo Epifani manda un messaggio ad Emma Marcegaglia, il presidente di Confindustria: decida secondo coscienza. La CGIL ribadisce il no alla proposta di Confindustria di modificare i contratti. Il nostro obiettivo, spiega appunto Epifani, è quello di evitare tanti modelli separati perché generano dumping sociale, è il far west, perché non ci sarebbero regole uguali ma ognuno per sé. Per quanto riguarda poi l'adeguamento dei salari all'inflazione, Epifani boccia la proposta di Confindustria perché porta strutturalmente ad un abbassamento dei salari e perché l'inflazione viene calcolata e depurata sempre dalla componente energetica. Ad Epifani risponde il vicepresidente di Confindustria Alberto Bombassei. Sentiamo. Non è che la CGIL abbia abbandonato il tavolo, ha ufficializzato il suo dissenso sulla non condivisione del documento che abbiamo presentato. La cosa singolare è che ha rotto prima di sapere le nostre risposte, quindi questo la dice lunga sul fatto che non c'era nessuna buona volontà di cercare di risolvere il problema. È un sistema per conservare delle situazioni, credo che non siano più adeguate a quello che è il mondo moderno industriale e soprattutto quello che la globalità rende obbligatorio di avere dei rapporti diversi. Grazie Elisabetta Fiorito, questo era il vicepresidente di Confindustria Alberto Bombassei, intervenuto questa mattina su Canale 5 a Mattina 5. E ci sono Emma Marcegaglia, Guglielmo Epifani, Bonanni e Angeletti nella vignetta sulla prima pagina di Libero Mercato su un ring, il ring dei contratti. Vauro sul Manifesto ci scherza su, due operai che parlano tra loro e scontro tra Bonanni e Angeletti. Ma se è Epifani che non ha firmato? Sì, però loro si sono azzuffati per chi firmava prima. E un altro fronte caldo naturalmente è quello della giustizia. Oggi è arrivato il primo via libera alla riforma del processo civile. 200 279 voti favorevoli, 210 quelli contrari, ci sono stati anche 31 astenuti. La Camera ha dunque approvato le norme contenute in uno dei disegni di legge collegati alla finanziaria. Il testo naturalmente ora passa al Senato. Ecco che cosa prevede il testo approvato oggi. Filtro in Cassazione, testimonianza scritta, più cause a giudice di pace, sentenze sul web e conciliazione. Queste le principali novità della riforma del processo civile. Cambia l'ammissibilità dei ricorsi nel terzo grado di giudizio, che sarà decisa da un collegio di 3 giudici. È il cosiddetto filtro soggettivo voluto dalla maggioranza, cui si affianca però anche il filtro oggettivo che l'opposizione è riuscita a far passare. In caso di sentenza conforme in primo e secondo grado, il processo non potrà arrivare in Cassazione. Altra novità, l'introduzione della testimonianza scritta. Il testimone potrà cioè rendere la propria deposizione compilando un modello di testimonianza, che verrà poi spedito al giudice. Si allarga la competenza dei giudici di pace, che potranno esaminare cause fino a un valore di 5.000 euro, 20.000 per quelle di risarcimento danno da incidente stradale. Il giudice potrà imporre di pubblicare le sentenze, oltre che sui giornali, anche sul web. Aumentano infine le possibilità di mediazione e conciliazione, con l'ampliamento degli organismi conciliatori e la possibilità di trattare le controversie online. Maria Luisa Pezzali, GR 24, Il Sole 24 Ore. E la giustizia, stavolta però quella inglese, cambia immagine. Dice addio alle parrucche. Avete presente quelle che abbiamo visto tante volte nei film? Dopo 9 mesi di ritardo, i sarti sono finalmente riusciti a finire tutte le nuove toghe e così, per i giudici britannici, via con il nuovo look e soprattutto via la tradizionale parrucca che per 300 anni ha dato alla giustizia un'immagine austera quanto, diciamocelo, anche un po' buffa. Secondo il 68% degli inglesi, era proprio ora di svecchiare l'immagine dei magistrati non più al passo con i tempi. Il restyling, che sarebbe dovuto sfilare in corte già dal 2 gennaio, dopo ben 4 anni di consultazioni, era stato rimandato da Lord Phillips, supremo Lord Chief Justice, proprio perché le toghe non erano ancora pronte. Da ora in poi, i giudici dell'alta corte britannica e delle corti d'appello abbandoneranno boccoloni di crine di cavallo e collari e indosseranno un'unica toga sia per l'estate che in inverno. In tempi di crisi, spogliarsi della parrucca farà risparmiare al sistema giudiziario britannico l'equivalente di circa 450.000 euro all'anno. La riforma riguarda però solo i processi civili e le cause di famiglia. Le tradizionali parruccone, importate dalla Francia alla fine del XVII secolo da Carlo II, continueranno a restare obbligatorie nei più severi tribunali penali. Giorgia Scaturro, GR24, Il Sole 24 Ore, Londra. E c'è un'ultima ora, naturalmente era attesa la decisione della Banca Centrale Europea sui tassi di interesse, che rimangono invariati in Europa al 4,25%. GR Extra Large, le notizie di oggi. Il Senato americano ha approvato il piano di salvataggio di Wall Street. Tremonti in Italia rassicura, i rischi per la crisi nel nostro paese rimangono contenuti. Tassi invariati al 4,25% in Europa, l'abbiamo sentito poco fa, è arrivata la decisione della BCE. Ryanair contro Alitalia, ricorso a Bruxelles contro il piano di salvataggio. Secondo la compagnia irlandese, l'Italia è ricorsa ad aiuti di Stato. Intanto a Milano il Consiglio d'amministrazione CAI si è riunito dopo l'accordo con i sindacati. 100 eccellenze d'Italia nel rapporto Eurispes, dalla neurochirurgia al vetro soffiato, l'Italia che funziona. E c'è un'altra ultima ora che riguarda il ciclismo. È arrivata la richiesta è arrivata la squalifica per Riccardo Riccò. 22 mesi erano stati chiesti, forse addirittura 20 mesi da parte della procura. Sono arrivati 2 anni di squalifica per Riccardo Riccò. Ricordate, il ciclista italiano che era stato trovato positivo all'Epo di ultima generazione nel Tour de France del 2008, di quest'anno dunque. La scuola, ora ve l'avevamo promesso poco fa, oggi giornata del No Gelmini Day, il ministro ha replicato ai genitori riuniti davanti a Montecitorio, ma ci racconta tutto Andrea Viali. Sì, quella che parte oggi è una nuova tre giorni di protesta contro i provvedimenti sulla scuola decisi dal governo e dal ministro Gelmini, primo fra tutti la reintroduzione del maestro unico alle elementari. Una mobilitazione spontanea, quella di questi giorni, che stamattina ha visto scendere in piazza davanti ai palazzi del potere genitori e insegnanti insieme in quello che, come dicevate, è stato chiamato il No Gelmini Day. La nostra Chiara Romanello ha parlato con Simonetta Salacone, che è la dirigente scolastica della Iqbal ma sì, una scuola elementare di Roma, dalla quale nei giorni scorsi ha preso impulso questo movimento di protesta che poi si è allargato anche ad altre realtà. Sentiamo cosa ha detto. Il ministro scardina il sistema istruzione senza aver aperto un dibattito nel paese, né con esperti, né con il mondo della scuola, né con i cittadini. Non era mai capitato in questo paese che si modificasse radicalmente il sistema di istruzione senza un dibattito di competenti, fatto cioè in 3 giorni con il ministro delle finanze. Quante piccole scuole di piccoli paesi scompariranno? Ma se si continua a dire che le scuole sono una spesa inutile, che i docenti sono troppi, ma quale autorevolezza vogliamo dare a questa scuola? Piccole frange che non guardano i problemi, il ministro Gelmini ha liquidato così i manifestanti che sono scesi in piazza oggi. La Gelmini ha parlato a margine di un convegno che a Roma, alla LUIS, ha messo a confronto i sistemi di valutazione adottati dalla scuola italiana con quelli usati invece negli altri paesi europei, un raffronto dal quale l'Italia non esce bene, come ci ha spiegato Attilio Oliva, che è presidente dell'associazione 3L che ha organizzato questo seminario. Sentiamolo. Il ministro ha detto che crede in un sistema nazionale di valutazione esterna, quindi nel potenziamento degli INVALSI, dell'Istituto Nazionale che deve fare questo lavoro. L'INVALSI ha un bilancio di 10 milioni di euro. L'INVALSI spagnolo più le regioni che fanno questo controllo ne spendono poco meno di 100. Solo l'Ofsted inglese, quella che fa le visite alle scuole, non i test, ne spende 130 milioni di euro. Più fa i test nazionali, che sono altri centinaia di milioni. Quindi questo dà la misura del nostro ritardo. Gli altri spendono almeno 10 volte di più di quello che spendiamo noi per effettuare la valutazione esterna, ispezioni e test. Grazie Andrea Viali. Veniamo invece a Milano per un altro appuntamento politico, che è la festa del Partito del Popolo delle Libertà. Ce la racconta Daniele Biacchessi. A quasi 6 mesi dalla vittoria elettorale, il Popolo delle Libertà si cimenta nella prima festa pubblica. Il tema centrale resta la costituzione di un partito politico vero e proprio, superando così i limiti e pregi di essere stato fino ad ora un cartellone elettorale, seppur vincente. Si confrontano le due anime forti, Forza Italia, il partito moderno organizzato in club, Alleanza Nazionale, più strutturato come un vecchio partito con sezioni e federazioni e un forte controllo di alcuni territori. Certo, ci saranno tutti i temi di attualità, la pubblica amministrazione, sicurezza, federalismo, scuola, riforme, ma la vera sfida del Popolo delle Libertà sarà l'accelerazione di un progetto politico di unificazione, che vuol dire tessere sedi, persone. Modello federale oppure modello, diciamo, PD. Sullo sfondo c'è infine il noto dualismo tra Silvio Berlusconi, premier e capo assoluto della coalizione, e Gianfranco Fini, presidente della Camera e guida della nuova destra. Fini parlerà sabato 4 ottobre, Berlusconi il 5 ottobre. E proprio in quelle 24 ore si misurerà, al di là delle parole, il futuro della coalizione politica di centrodestra che guida il paese. Apriamo come sempre la nostra finestra sul mondo arabo con la rassegna stampa a cura di Adib Fateh Ali. I timori del Pentagono sulla fragilità dei miglioramenti della sicurezza in Iraq in primo piano sui maggiori quotidiani arabi di oggi. Il titolare dell'agenzia di viaggi che ha organizzato il safari dei turisti europei rapiti in Egitto svela ad al-Sharq al-Awsat che i sequestratori hanno voluto il riscatto dai tedeschi perché, a differenza di quelli egiziani, per loro erano soldi di cristiani e quindi leciti per la sharia islamica. Il giornale saudita Al-Watan riporta l'allarme di economisti locali sulla crisi monetaria mondiale. In pericolo un terzo dei 70.000 miliardi di dollari investiti all'estero. Lo stesso giornale riferisce che un consigliere comunale della capitale saudita si dimette dal suo incarico per protesta contro la troppa promiscuità durante una cerimonia ufficiale. Una donna egiziana colpita da allergia polmonare causata dal sigari del marito chiede il divorzio e lo ottiene da un tribunale che non riesce a convincere il coniuge di rinunciare al suo vizio, almeno in casa. Il giornale locale Al Jumu'ah. Film in corsia, non si tratta però di pellicole, come spesso capita, ambientate tra medici e pazienti, ma di una iniziativa che riguarda l'ospedale maggiore di Bologna. Sentiamo. Il diavolo Paolo Veste Prada, Una notte al museo, La fabbrica di cioccolato, La marcia dei pinguini. Sono i titoli di una rassegna cinematografica molto speciale. Speciale per il luogo che la ospita. Fino al 2 dicembre, ogni martedì pomeriggio, l'appuntamento è nell'Aula Magna dell'Ospedale Maggiore di Bologna. L'obiettivo della rassegna Cine Maggiore è quello di rendere più gradevole il ricovero in ospedale, come ci spiega Maria Cristina Pierassini, infermiera e volontaria del Circolo Aziendale Ravone che ha organizzato l'iniziativa. Quello che si coglie, ma lo coglie non soltanto il personale infermieristico o comunque sanitario, lo colgono anche ovviamente gli esterni, è il fatto che comunque in ospedale non ci siano momenti in cui una persona possa dire: oddio, mi svago un attimo, penso ad altre cose, oltre al fatto che sono qui dentro una camera chiusa, l'unica cosa che posso fare è guardare la televisione o leggere un libro, ecco, eventualmente, perché momenti di svago ce ne sono ben pochi all'interno di un ospedale. E così, per svago e anche per socializzare, arriva il cinema, così come sono già arrivati i concerti e le mostre. Abbiamo portato dei violinisti proprio in atrio al Maggiore. Sono stati dei signori che si sono seduti ad ascoltare e che erano in attesa di un referto. Qualcuno ci ha ringraziato perché hanno ascoltato la musica invece di magari passare mezz'ora davanti alla porta del laboratorio, della radiologia. Ecco, quindi già questo ci ha fatto piacere, insomma. E poi speriamo che col tempo questa cosa diventi routine ospedaliera, ecco. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. Dall'America primo sì al piano Bush contro la crisi, ora si lavora al piano europeo. Tremonti per il nostro paese è ottimista, in Italia pochi rischi. Tassi invariati al 4,25%, intanto in Europa poco fa è arrivata la decisione della BCE. Ryanair contro Alitalia, ricorso a Bruxelles contro il piano di salvataggio proprio mentre a Milano si riunisce la CAI dopo l'accordo con i sindacati. La risposta dei casalesi, agguato questa mattina nel Napoletano, omicidio nell'azienda di un testimone di giustizia, gli inquirenti non escludono lo scambio di persona. Fini richiama Berlusconi sul conflitto tra governo e Parlamento, non si abusi dei decreti, Schifani sta con il Premier, c'è Napoletano a vigilare. 2 anni di squalifica per Riccardo Ricco, il ciclista italiano trovato positivo all'EPO di ultima generazione al Tour de France. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large, coordinamento di Maria Piera Ceci, in regia Pietro Lacorte, in studio Alessio Maurizi e Anna Migliorati. Ci ritroviamo domani, come sempre, a partire dalle 13 e come sempre, se volete scriverci, la nostra mail extralarge@radio24.it. GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Giancarlo Santalmassi.